fragile e denso, di grida appese alla notte, qui sul confine del mondo. Porque tanto yo también, cuando tú me hablas, toma un cabrón, tana mía, corazón está sufriendo, tana mía, por favor. Liberare tutti, vuol dir lottare ancora, vuol dir organizzarci, senza perdere. Allora, buongiorno a tutti e tutte, sono le 15 e 2 minuti primi ed oggi è mercoledì 10 di dicembre e dunque si avvicina per cui la fine dell'anno ed è un buon giorno, così, è una buona occasione per mandare ancora più forza gli auguri di buona libertà per coloro che ne sono privati o privati, quindi che, quelli che ci ascoltano dalle carceri, ma anche quelli che non ci possono ascoltare perché stanno lontano dalla provincia di Roma. Dunque, sapete che cosa è successo? Lo sappiamo tutti, diciamo, è l'argomento più grosso, contenuto più importante, perlomeno per come l'hanno attribuito i giornali. I giornali hanno dato molto spazio a questa cosa di mafia capitale, eccetera, eccetera. Non entriamo in merito alle truffe, le cose, sono abbastanza la quotidianità per questo paese e non solo questo paese. Questo tipo di società basate sull'arricchimento, sui profitti, sullo sfruttamento, è chiaro che è abbastanza chiaro che producono queste cose, ma non è la nostra convinzione, è il percorso storico di tutti questi paesi che hanno un sistema capitalistico economico, ossia lo sfruttamento di tanti a vantaggio di pochi, è abbastanza così, e quindi si producono queste situazioni. Non vogliamo entrare in merito, però questa situazione della cooperativa 29 giugno, che hanno scoperto che i vertici di questa cooperativa e il consorzio in cui faceva parte questa cooperativa facevano degli imbrogli, delle truffe, corruzioni e così via, è un fatto, è un problema, indagherà la magistratura e vedremo che succede. Quello che però invece dà fastidio a tutti coloro che si occupano di carcere e che comunque hanno un minimo di sensibilità, è che in questa vicenda rischiano di essere travolti non tanto i 4, 5, 6, 10, 20, 100 indagati che saranno, ma le migliaia e migliaia di persone che lavorano in queste cooperative e che non hanno altro, diciamo, proventi che non le pochissime centinaia di euro, a volte 1000, a volte 800, 700. Questi sono gli stipendi che i dipendenti delle cooperative prendono e che riuscivano a malapena a campare, e sono ex detenuti che sono in misura alternativa, sono disabili, sono tossicodipendenti, cioè le categorie disagiate, così vengono definite dalle leggi di questo paese. Ecco, questi stanno pagando pesantemente l'imbroglio che alcuni personaggi, i leader, diciamo i dirigenti di questa cooperativa e del consorzio di queste cooperative trattavano con i politici, cioè questo imbroglio mafioso, chiamatelo come volete, insomma, rischia di cascare sulla testa di chi lavora per campare, ed è sempre così, purtroppo in questa società è sempre così ed è una cosa abbastanza schifosa. Se ne è già parlato anche da questi da questa radio poco fa, in mattinata, in tarda mattinata, se ne è parlato. C'era un lavoratore di queste cooperative che appunto, in merito all'assemblea che c'era oggi, alla protopoteca del Campidoglio, intorno a mezzogiorno, mezzogiorno e mezza, proprio per denunciare questo fatto, che di una vicenda che appunto interessa la corruzione e i traffici illeciti di pochissime persone, dirigenti di queste, di questo consorzio di cooperative, e insieme a politici o amministratori vecchi e nuovi, insomma, poi però cade il problema, cade sulle spalle di chi lavora per un misero, magrissimo salario. Leggiamo quindi a proposito una lettera che i lavoratori della 29 giugno hanno inviato ai giornali, e che si dicono noi vittime, non mafiosi. È ovvio, non mi mette con 800 euro al mese che ci azzecca, cioè veramente la stupidità anche dei media che stanno facendo una, non riescono ad avere quel minimo di capacità razionale, intellettiva, per dividere le due cose. I lavoratori di queste cooperative sono gente che appunto vende la propria forza lavoro per un misero, magro salario, appunto parliamo di 700-800 euro, 1000 euro, ci si campa appena, ma molto molto appena, e dall'altra parte appunto chi invece faceva traffici con i politici, gli amministratori eccetera, ecco, non si riesce a dire. Allora hanno scritto una lettera che andiamo a leggere. Allora così inizia la lettera di rappresentavano un po', dice, 1300 lavoratori della 29 giugno, non sono tutti loro ovviamente, però una parte di questi hanno voluto esprimere le loro posizioni. Così, abbiamo aspettato un po' prima di prendere la parola su quanto sta avvenendo a Roma in questi giorni, mentre assistevamo all'ennesimo all'ennesima volta in cui è stato lasciato alla magistratura il compito di fare pulizia. E questo è il primo elemento, no? Sì, su un problema spinoso, sporco, cioè sul malgoverno a livello amministrativo e a livello centrale, a livello locale e a livello nazionale, che portano avanti i politici e i dirigenti di cooperative o società si lascia, invece che non interviene il politico che dovrebbe gestire queste cose, ma si lascia alla magistratura il compito di gestire situazioni politiche e sociali che non hanno nulla hanno veramente l'aspetto politico e sociale. La carenza delle amministrazioni locali e nazionali è gravissima su questo fatto. Comunque, infatti, denunciano che ancora una volta si lascia il compito alla magistratura di regolare situazioni che andrebbero regolate dal punto di vista politico e sociale dagli organi preposti. Continua la lettera: abbiamo visto ed ascoltato televisioni, giornali e politici di turno, siamo rimasti in silenzio per qualche giorno, consci fin da subito che tutto questo avrebbe avuto ripercussioni sulle nostre vite, ma ora è tempo che vengano fuori le nostre parole. Troviamo insopportabile che il nostro lavoro e le nostre storie personali vengano associate al mondo squallido e criminale che sta venendo fuori dall'inchiesta. Lo vogliamo dire con chiarezza che noi, insieme ai cittadini di questa città, siamo le prime vittime di un sistema mafioso, clientelare e corrotto. È ovvio, non sono coloro che ne godono, ma sono le vittime. Infatti i loro salari sono ridotti a zero, perché il problema è molto semplice. Sul terreno economico sapete che c'è una legge che, come nella fisica, nulla si crea e nulla si distrugge. Se i soldi vengono accaparrati da alcuni pochi che stanno a vertice di cooperative o di aziende o di multinazionali, è chiaro che quei soldi vengono tolti a chi sta in basso. È molto semplice, è esattamente quello che sta succedendo in questi anni in tutto il mondo. Vi sono ormai addirittura anche l'ONU e arriva dopo tre grandi osservatori economici internazionali, il primo era uno tedesco, poi uno svedese olandese e poi un altro americano, hanno individuato che dal 2007, anno d'inizio di questa crisi, al 2013, i dati arrivano fino al 2013, ma il 2014 non ha invertito questa tendenza, bene, in questi anni della cosiddetta crisi, che poi non è stata crisi, ma è stata quello che questi dati vi dicono, trovate voi la definizione, cioè queste grandi associazioni, osservatori economici, fatti di grandi economisti, cioè, hanno valutato che la forbice, la differenza tra redditi bassi e redditi alti si è molto accentuata. Cioè praticamente questi anni di cosiddetta crisi sono stati utilizzati per togliere i soldi dalle tasche dei lavoratori e darli ai grandi imprenditori, ai grandi banchieri, ai grandi industriali, ai grandi finanzieri. Questo è successo, questo sta succedendo sotto i nostri occhi. E qui in questa rapina la si fa in maniera legale con le leggi, per esempio il Job Ax, quello che ha fatto Renzi adesso, è una di queste attività volte a far togliere, legalizza il fatto che degli imprenditori levino i soldi dalle tasche dei propri dipendenti per metterseli ai propri profitti, per aumentare il proprio capitale. Questo sta avvenendo, queste sono le leggi che fanno gli stati, queste sono le regole che dà la Comunità Europea, queste sono anche le regole che dà il Fondo Monetario Internazionale e sono le regole vigenti in questo mondo capitalistico. Non c'è soltanto degli imbecilli possono pensare che anche i lavoratori di queste cooperative si avvantaggiavano degli aspetti lucrosi. Ancora un'altra, leggiamo un altro paragrafo di questa lettera. Vogliamo dire forte e chiaro, i lavoratori della 29 giugno dicono che non abbiamo preso né dato mazzette, ovviamente, non ci siamo arricchiti, non abbiamo speculato sulla pelle degli immigrati, non abbiamo partecipato a nessun banchetto, né ci riconosciamo con le pratiche di quei farabuti dei dirigenti della cooperativa 29 giugno che votandosi al dio denaro hanno fatto affari con i politici di destra e di sinistra, mafiosi e fascisti di ogni ordine e grado. Mentre i nostri dirigenti e i loro amici e a Libropaga si arricchivano sulla sofferenza degli ultimi di questa città, i senza casa, gli immigrati, i rom e i rifugiati, noi abbiamo vissuto di bassi salari, non di raddoppi di profitti. Chiaro, no? Le 700 euro al mese, ditemi voi se è un alto profitto o un basso salario, e non diciamo stupidaggini, perché sennò veramente è da sputarsi in faccia quando uno si guarda allo specchio. Quindi silenzio, questa cosa è attività mafiosa contro gli ultimi, contro i lavoratori, contro i diritti. Situazioni, tra l'altro, categorie, come dice la legge, no? disagiate vuol dire deboli, perché gli detenuti che aspettano un posto di lavoro per avere la misura alternativa, e chi ci ascolta dalle carceri lo sa quanto è doloroso e difficile in un periodo di bassa occupazione, di difficoltà di trovare lavoro per chiunque, figuratevi per chi sta in carcere o per chi è appena uscito, oppure i disabili a idem, oppure i tossicodipendenti altrettanto difficile, e quindi arricchendosi su o gli immigrati o i rom, tutte situazioni svantaggiate che hanno più difficoltà degli altri, che già ne hanno molte, di trovare un lavoro. E insomma, ecco, quindi la lettera è molto lunga, comunque la trovate un po' su tutti i giornali, e dicevano proprio la manifestazione di quest'oggi alle 12:30 alla sala della Promotomoteca in Campidoglio, per esprimere, esporre le loro ragioni, far capire ai giornali che smettessero di dire baggianate ma dicessero la realtà. C'è un altro elemento da dire sulle cooperative e sul lavoro per i detenuti carcerati, i soggetti cosiddetti fragili, deboli, quelle categorie che abbiamo detto prima. Dunque, per quanto riguarda il carcere, lo sapete, da tempo ne parliamo, chi segue questa trasmissione, il carcere è stato costruito, è nato per addestrare, imporre la disciplina di fabbrica alle persone che non avevano mai lavorato in fabbrica. Infatti nasce nel 600-700, quando in molti paesi si sviluppa l'industrializzazione, quindi nascono le fabbriche, e allora bisognava fare in modo che i contadini, i pastori, quelli che vivevano all'aria aperta, andassero a lavorare in questi luoghi oscuri, bui, umidi, freddi, fiochi, senza luce, con lampadine per 13-14 ore al giorno. Questa era la realtà. Siccome erano abbastanza non contenti di andare a lavorare a quella vita, allora li costringevano con due provvedimenti sostanzialmente. Uno è espropriarli dalla terra, piccoli contadini li espropriamo dalla terra con i meccanismi del debito. Le banche hanno sempre avuto il ruolo più mafioso possibile immaginabile nella storia dell'umanità, questo lo dicono i libri di storia seri, che forse a scuola non si studiano, ma non è colpa nostra, evidentemente i professori non sono all'altezza. Le banche sono state lo strumento principale mafioso per imporre tutto ciò che era illegittimo contro le situazioni, le classi subalterne basse. Difatti si facevano dei prestiti ai contadini, prestiti a tassi molto alti, questi tassi venivano alzati continuamente, il contadino era impossibilitato di pagarli, gli veniva sequestrata la terra, e così si è costruito il latifondo. Questo era un metodo, quello più diffuso. L'altro metodo era quello con le scorrerie militari, perché alcuni latifondisti avevano anche degli armati, dei gruppi armati che levavano la terra ai contadini, a volte li ammazzavano, comunque li cacciavano via mano militare dalla terra e la terra passava al latifondista. Questi gruppi militari al servizio dei latifondisti venne chiamata storicamente la mafia. La mafia è questa, sono strutture armate che fanno arricchire i ricchi e impoverire i poveri, punto, non c'è altro da aggiungere, se non cose, come dire, si può allargare. E allora questa cosa qui, questo sta succedendo in questi anni, dentro l'arricchimento dei ricchi e l'impoverimento di chi è già povero, di chi vive di salario, ci stanno tutte le truffe, gli impicci, gli imbrogli in cui vengono coinvolte tutte le strutture di questa società. Le cooperative, visto che qui si parla di cooperative, perché le aziende, le multinazionali, lo sanno pure i bambini e le bambine che sono dei banditi, dei ladroni, dei truffatori e dei mafiosi, su quello non c'è dubbio. La multinazionale è la vera mafia, la mafia non è più quella con la coppola e la doppietta a tracollo. La mafia vera è quella che sono i manager delle multinazionali, questo lo sanno tutti, o viene nascosto, però ormai insomma, lo sanno abbastanza tutti. Ma il problema è che poi sorge la cooperativa doveva essere nell'Ottocento, ovviamente molto vecchio, anche diciamo, come dire, veniva esaltata da alcune formazioni della sinistra, per esempio delle realtà della sinistra ottocentesca, che dicevano facciamo in modo che i lavoratori si organizzano tra di loro, fanno una cooperativa, così non ci sta il padrone che sfrutta i lavoratori, si auto-organizzano loro, prestano il lavoro, lo prendono in mano delle attività lavorative e si dividono il lavoro. Così doveva essere nelle intenzioni, in realtà non è stato così. In un ambiente capitalistico anche una cosa pensata per buona diventa molto peggio di quelle già esistenti, e così è successo per le cooperative. Le cooperative sono diventate in realtà caporalato, cioè prendono della povera gente disoccupata, li fanno aderire, fa diventare soci della cooperativa, poi vendono questa forza lavoro alle grandi società, lucrando, che già le grandi società sfruttano il basso costo della forza lavoro, i dirigenti delle cooperative lucrano su questo passaggio di forza lavoro dal loro dipendenze a quella delle multinazionali. Questa è la cooperativa, e che poi per poter fare questo sono chiaramente intrallazzate con le amministrazioni pubbliche locali o nazionali, insomma o i governi nazionali o i governi regionali, comunali eccetera. C'è un elemento centrale in tutto questo: queste cooperative che danno lavoro a tanta gente sono anche un bacino elettorale in una realtà politica come quella europea e anche di gran parte del mondo, dove diciamo, i partiti cercano il consenso elettorale. È chiaro che questi sono bacini elettorali, quindi facendo il favore alla cooperativa, la cooperativa dice: io dico ai miei 1000, 2000, quelli che sono dipendenti, di votare per te, e tu quindi mi fai due favori. Questo scambio, ovviamente mafioso anche questo, è abbastanza nella norma, quindi caporali da una parte, scambi tra profitti e voto dall'altra. Tutte e due le cose illegali, ma parlare di legalità ormai fa abbastanza ridere, perché in questo mondo nel mondo capitalistico non c'è mai stata una legalità. La legalità è del più forte, l'ha sempre esercitata il più forte contro il più debole. Secondo, in questa fase, diciamo da 15-20 anni a questa parte di sviluppo, quello che si chiama liberismo, epoca liberista, cioè in cui il capitalismo assume le vesti liberiste, che sono ancora più feroci di quello per esempio socialdemocratico eccetera. Bene, nella fase liberista, quella attuale, e chiaramente questo meccanismo, diciamo, mafioso della cooperativa che vende forza lavoro lucrando sulla stessa alle grandi multinazionali si è molto accentuata, perché sapete tutti, la privatizzazione delle aziende pubbliche è diventato sviluppo mafioso delle attività così lucrative sulla pelle di chi lavora. Lo spacchettamento, il job act, per esempio, se lo vedete attentamente, quello che ha fatto ultimamente Renzi è un favorire le attività mafiose contro le attività diciamo tra virgolette legali. Oggi non ha più senso, se mai ha avuto senso, e non l'ha mai avuto un senso, parlare di legalità in ambito capitalistico. Oggi è proprio da dementi parlare di legalità, perché non c'è nessuna attività pubblica delle banche, dei grandi industriali, dei finanzieri, degli stessi governi che praticano una sorta di legalità. Quindi la pretendono dai poveretti, dalla povera gente. Se rubi una mela ti mandano in galera, ma i traffici di miliardi a livello internazionale sulla pelle della povera gente, è chiaro che non viene assolutamente mai toccato. Questo è il discorso. Quindi sulle cooperative va fatto una grossa battaglia. Le cooperative ormai sono l'escremento di questa società, non si possono più aggiustare, vanno come erano forse nelle intenzioni di alcuni nell'Ottocento, eccetera. Sono state considerate che appunto nell'Ottocento c'era questa, nella metà dell'Ottocento, già nella fine dell'Ottocento si era guastato questo percorso. Nel Novecento ha avuto proprio un degrado spaventoso, al punto tale che, questo lo raccontano in pochi, ma è la realtà, durante nell'ascesa del nazismo nella Germania degli anni, fine degli anni 20, inizio degli anni 30, nell'ascesa del nazismo di Hitler, attenzione, le cooperative, molte cooperative sono state, quindi molto più, vedete, questa non è non c'è niente di nuovo in questa storia, sono state prese, cioè al comando di queste cooperative sono andati degli esponenti pagati da grandi industriali, Krupp e altri, hanno preso la direzione di queste cooperative. Queste cooperative sono state il veicolo con il quale il nazismo ha preso il potere, ha conquistato territori, perché il bacino di queste cooperative diventava filo nazista, filo hitleriano, quindi questo qui gli permetteva di conquistare territori, e poi alla fine ha vinto anche sul terreno elettorale nel 33. Questa è la realtà. Però il nazismo non è la sua forza non è venuta dal fatto che ha vinto le elezioni nel 33, ma nel fatto che controllava l'intero, la gran parte del territorio. Questo gli ha permesso di fare le stragi, distruggere i sindacati non allineati, poi ha costruito suoi sindacati suoi nazisti, quelli che mettevano insieme i lavoratori e padroni. Quando si mette insieme i lavoratori e i padroni, si dice siamo tutti sulla stessa barca, non si fa altro che usare la terminologia di un certo signor Hitler, perché il nazismo aveva questa tesi fondamentale: non è vero che c'è contrapposizione tra operai e padroni, tra imprenditori e lavoratori, ma devono andare d'accordo perché stanno sulla stessa barca. Qual è questa barca? L'interesse nazionale, costruire la potenza della nazione. Questo è il nazismo. E quindi, come vedete, quanti discorsi nazisti abbiamo oggi, pur non essendoci un partito nazista che li brevetta, però la gran parte dei governanti di questo paese parlano un linguaggio di questo tipo. Up on the street, homeboy, homeboy. Everybody needs a home, homeboy, homeboy. Everybody needs a home. So many people rise and fall. Who's looking after you at all? Nobody knows anybody at all. Strangers in paradise down at the mall. Homeboy, homeboy. Everybody needs a home. Homeboy, homeboy. Everybody needs a home. Home, home. Everybody really needs a home. Home, home. Everybody. This whole country is scared of failure. My head keeps trying to sell me ambition. Allora, allora 15 e 26 minuti primi, ancora in diretta, però vi vogliamo far sentire adesso un'altra voce, un'altra trasmissione, diciamo, presa questa corrispondenza con un compagno in Grecia è presa da Radio Cane è una radio che però non viaggia nell'etere come Radio Onda Rossa, ma attraverso il web, quindi chi sta in carcere non avendo l'internet non può accedere al web, è chiaro, gliela facciamo sentire noi. È interessante, fa delle cose egregie Radio Cane, sono dei compagni e delle compagne di Milano, fanno delle interviste interessanti. Questa qui è l'intervista fatta appunto con un compagno greco che parla dello sciopero della fame di Nikos Romanos, che è, appunto, sta in carcere nelle galere greche e che il 10 novembre ha iniziato questo sciopero della fame per una serie di motivi gravissimi che chiaramente in Grecia la situazione è ancora più devastata che in Italia, c'è quindi una tensione molto alta, la repressione è ancora più feroce che non qui, chiaramente quella è più alta, si innalza tanto quanto si innalza il conflitto, e quindi chiaramente la situazione è questa. Ve la facciamo sentire perché riteniamo che sia molto interessante. Non so quant'è risaputa la storia di Nikos Romanos, un compagno anarchico che si trova ormai da un mese in sciopero della fame. Take a stick of bamboo, take a stick of bamboo, you take a stick of bamboo and you throw it in the water. La sua storia racconta un po' la storia degli ultimi anni del movimento, molte parti di questo che succede in questa città, in questo paese durante gli ultimi anni. Nikos Romanos, un compagno anarchico 21enne, si trova allo sciopero della fame per poter avere i permessi di uscire dal carcere, permessi di studio in pratica, per poter studiare dopo aver fatto gli esami per l'università. Da 30 giorni il movimento, ma non solo il movimento anarchico, un intero movimento, ma molte migliaia di persone si trovano al suo fianco. Possiamo dire che sta per diventare un simbolo per la sua determinazione, per la sua dignità a dare questa lotta, una lotta che comunque non si richiude proprio solo al permesso di uscire dal carcere per avere un po' di respiri di libertà, come dice lui, e racchiude con la sua lotta, e per questo ha l'appoggio di migliaia di persone, il conflitto contro un potere sempre più arrogante, sempre più fascistoide. Nikos Romanos è l'amico di Alexis Grigoropoulos. Nikos ha visto Alexis morire da una pallottola di uno sbirro 6 anni fa, e adesso con la sua lotta prova a dare un respiro che possiamo dire che negli ultimi anni, gli ultimi 1 o 2 anni, si era mancato dal movimento, ma non solo. You travel on the river, you travel on the river, you travel on the river, you travel on the water. Durante tutti questi giorni sono state molte, tutte le storie di solidarietà, tutti gli avvenimenti di solidarietà, occupazioni, cortei, attacchi contro simboli di Stato e del capitale, e diciamo che la sua storia è come va a svilupparsi, sta per diventare proprio un braccio di ferro tra la gente che lotta e resiste contro questo esistente veramente sempre più asfissiante per milioni di persone, e dall'altra parte un potere che sembra ormai avere solo il terrore di massa, la polizia e i suoi meccanismi di propaganda per difendersi. Nikos scriveva nella sua ultima lettera che la sua lotta è una lotta che andrà fino alla vittoria o fino alla morte. Comunque non possiamo sapere come si evolverà tutta la vicenda, però di certo Nikos secondo me ha già vinto, perché ha fatto uscire di nuovo nelle strade migliaia di persone, ha fatto raccontare storie che sembravano un po' dimenticate negli ultimi mesi, negli ultimi anni. Ha fatto vedere che pure un uomo, pure un compagno, pure un anarchico, pure uno detenuto può cambiare, diciamo, un po' l'aria che tira in una intera società. Molte persone, non solo compagni anarchici o comunisti, si trovavano a fianco alla lotta di Nikos e si trovano pure i modi che si esprimono, non solo in teoria. Decine di edifici pubblici, a partire dal Politecnico e dalla sede del Sindacato Confederale di Atene, si trovano occupati, come pure in molte altre città, edifici dei comuni, edifici statali comunque, e come anche il grande corteo che si è fatto in solidarietà con Nikos e con i suoi compagni, che si trovano pure loro in sciopero della fame, in solidarietà con lui, come anche gli scontri e le grandi manifestazioni in tutta la Grecia che sono avvenuti sabato scorso, 6 dicembre, 6 anni dopo la morte avvenuta 6 anni fa, l'assassinio di Alexis Voropoulos da un assassino in divisa. Nelle sue lettere, tutta la sua frase, diciamo, racconta di una dignità che non trova modo per essere rinchiusa nelle gabbie. Non so se sembra un po' esagerato a dire che Nikos ha potuto risvegliare molte coscienze e mettere in movimento una intera situazione, un intero movimento che sembrava ultimamente essere in discesa. E questo pure non solo contro un governo sempre più fascistoide, ma pure contro un'opposizione neosocialdemocratica che cerca di prendere pure lei i sbriccioli da questa vicenda, per avere poi a raccontare quanto comanderà lei e quando loro, partito di Siriza in pratica, potranno diventare i nuovi padroni di questo paese. Πόσες φωλιές νερού να συντηρήσω μέσα στις φωλιές. Μιλάτε, δείχνετε πληγές σαν όφρανες στους δρόμους. Μιλάτε, δείχνετε πληγές σαν όφρανες στους δρόμους. Τον πανικό που στραγγαλίζει την καρδιά σας ασημαία. Την καρδιά σας ασημαία. Καρφώσατε σε ξώστες, με σπουδή φορτώσατε το εμπόρευμα. Η πρόγνωσή σας ασφαλής θα πέσει πόλης. Καρφώσατε σε ξώστες, με σπουδή φορτώσατε το εμπόρευμα. Η πρόγνωσή σας ασφαλής θα πέσει πόλης. Όμως εγώ δεν παραδέχτηκα τη νύχτα. Όμως στις φωλιές νερού να συντηρήσω μέσα στις φλόγες. Όσες φωλιές νερού να συντηρήσω μέσα στις φλόγες. Μιλάτε, μιλάτε, δείχνετε πληγές σαν όφραγες στους δρόμους. Μιλάτε, μιλάτε, δείχνετε πληγές σαν όφραγες στους δρόμους. Στρακαρίζει την καρδιά σας ασημαία. Τον πανικό που στρακαρίζει την καρδιά σας ασημαία. Καρφώσατε σε ξώστες, με σπουδή φορτώσατε το εμπόρευμα. Η πρόγνωσή σας ασφαλής θα πέσει πόλης. Καρφώσατε σε ξώστες, με σπουδή φορτώσατε το εμπόρευμα. Η πρόγνωσή σας ασφαλής θα πέσει πόλης. Κι ήθελα ακόμη, κι ήθελα ακόμη πολύ φως να ξημερώσει. Όμως εγώ δεν παραδέχτηκα την ήττα. Allora 15:37, riprendiamo in diretta dopo questa interessante finestra sulla realtà greca, che come vedete è abbastanza simile a quella italiana, per alcuni versi più dura, sia la repressione che le condizioni di vita delle de classi subalterne. Allora, torniamo qui da noi, dove è passato alla Camera la riforma delle misure cautelari. È un disegno di legge che adesso dovrà andare al Senato. Vedremo se porteranno hanno portato già delle modifiche e sono queste. Allora, il problema qual era? Questo disegno di legge si riproponeva il compito di ridurre la custodia cautelare, cioè andare in carcere senza essere stati condannati in attesa del processo, soltanto ai casi più gravi. È un elemento che il governo ha dovuto porre in essere, cioè fare un disegno di legge che limitasse la carcerazione preventiva o custodia cautelare, chiamatela come volete, è sempre quello, cioè essere messi in prigione prima di avere una sentenza definitiva. Era dovuta al fatto che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, oltre a sanzionare l'Italia per le condizioni disumane in cui versavano i detenuti, le celle strette, cioè sovraffollate, poco spazio a disposizione, assenza dei servizi eccetera, l'aveva sanzionata anche per questo fatto. Dice: in Italia sono troppo alti la percentuale dei detenuti e detenute che stanno in carcere non ancora condannate. E il livello in Italia era intorno al 40%, la media europea era il 15%, alcuni paesi stanno intorno al 10-12%, insomma, quindi siamo molto al di sopra della media europea, quindi non andava bene, e quindi la sanzione ha costretto l'Italia a fare questo disegno di legge. Molto alto il numero dei voti, 333 voti a favore e 21 contrari a Montecitorio. Adesso dovrà andare al Senato. Quali sono le norme principali? Il giudice non potrà più desumere il pericolo. Qual è il meccanismo con cui mandano una persona in carcere prima della sentenza definitiva? Il giudice di primo grado o di secondo grado, o anche semplicemente il giudice che segue l'istruttoria, ti può mandare in carcere se ravvisa il pericolo di scappare, scappa, va via, o quello di reiterare, ripetere il reato fatto, o di inquinare le prove. Questi sono i tre elementi che la riforma del codice di procedura penale del 2000 aveva posto in essere, però poi queste cose sono state travalicate dalla realtà molto pesante. Sapete, in Italia c'è un clima veramente forcaiolo, squallido, che pochissimi altri periodi ha visto emergere così. Insomma, la gente quando sta male è indotta dai media, crede troppo ai media, la popolazione italiana, e quindi quando succede qualcosa urlano di mandare in galera tutti, come se quello fosse la risoluzione dei loro problemi. Ovviamente è un altro. Comunque, per privare della libertà una persona non ancora condannata, dice questo disegno di legge, non servono i precedenti, i comportamenti e la personalità dell'imputato, che oggi invece contano, cioè la personalità, l'ambiente che frequenti, gli amici che hai, se hai precedenti eccetera, quelli non dovrebbero più contare. Gli obblighi di motivazione vanno ricercati nella relazione precisa che il PM dovrà fare con autonoma motivazione rispetto alla possibilità concreta che la persona possa commettere un altro reato. Però non deve essere soltanto un'idea, un'immaginazione del magistrato, ma veramente una relazione scritta comprovata da prove che sono appunto inchieste della polizia, dei carabinieri, che affermano con certezza che la persona, se lasciata libera fuori dal carcere o gli arresti domiciliari eccetera, può ripetere il reato. E questo è l'obbligo che dovrà avere fino adesso, da adesso in poi, se verrà approvato questo disegno di legge, la magistratura. Rimarranno così con la possibilità di mettere in custodia cautelare la persona inquisita o anche che ha avuto soltanto il primo grado, soltanto per i gravissimi reati tipo l'omicidio, la violenza sessuale, il sequestro di persona per estorsione. Per gli altri reati vale la presunzione relativa, diciamo, di innocenza fino appunto a sentenza definitiva, e quindi non può andare in carcere. Il problema chiaramente si acquista nuova funzione, probabilmente anche un grado più importante, il Tribunale della Libertà, che avrà tempi secchi, perentori, dice la legge, cioè termini esatti per pronunciarsi. Il Tribunale della Libertà è quello a cui ricorre la persona che viene messa in carcere pur non essendo ancora condannata, chiaramente ricorre al Tribunale della Libertà per riconquistare la libertà, si chiama proprio così, oppure il Tribunale della Libertà conferma la custodia cautelare. Bene, il Tribunale di Libertà, secondo questo nuovo disegno di legge, ha tempi molto secchi, molto fermi per pronunciarsi, non tempi infiniti come ha ora, e questo è il problema. E chiaramente il relatore di questo disegno di legge ha detto che le misure cautelari, cioè la custodia cautelare, la carcerazione preventiva, non può costituire un'anticipazione della pena, e quindi va tenuta fino a che la persona non è dichiarata colpevole dalle sentenze, dai tre gradi di sentenza, va considerata come innocente ancora, è ovvio, così dice tra l'altro anche la Costituzione, ma così dovrebbe dire la cultura civile, diciamo giuridica, che però è stata un po' stravolta in questi ultimi anni. Il problema però, attenzione, è che questa cosa l'ha dovuta fare perché appunto spinta dalla Corte Europea, però in realtà credo che ciò che abbiamo in piedi, insomma, la cultura generale, i media soprattutto, renderanno difficile l'affermazione di questo disegno di legge, anche se verrà approvato con votazione del Senato. Come sapete, però, per ogni cosa, diciamo, a favore dei detenuti che il governo è costretto a fare perché spesso imposto appunto dalle autorità internazionali, vi sono anche fatti, cioè si affiancano a questo come positivo, diciamo, no? Perché riduce i casi della carcerazione preventiva, della custodia cautelare, vengono introdotti cose invece peggiorative. Quali sono? Sono quelle che vengono aumentati da 2 mesi a 12 mesi, quindi 6 volte di più, i termini di durata delle misure interdittive. Le misure interdittive sono, sapete che sono la sospensione dell'esercizio di alcune potestà, per esempio le potestà genitoriali, nel caso che c'è il reato che riguarda il maltrattamento dei minori, oppure sospensione dell'esercizio da un pubblico ufficio, nel caso che si tratta di individuare se questo ha fatto degli imbrogli oppure no, oppure da un servizio, divieto di esercitare le attività professionali o imprenditoriali. Ecco, le misure interdittive sono quelle che ti impediscono di fare ciò che stavi svolgendo fino al giorno prima, quindi un po' un congelamento della situazione delle persone, pur non tenendole in carcere dovendo diminuire l'accesso alla custodia cautelare, cioè al carcere preventivo, è chiaro che si sono aumentate da tanto, da 2 mesi a 12 mesi, a un anno, le misure interdittive. Quindi tu rimani a casa, gli arresti domiciliari oppure anche con le firme, però sei interdetto da svolgere l'attività che hai svolto fino allora, in quanto in quell'attività, dice il giudice, io ho riscontrato la possibilità che tu eserciti dei reati, delle violazioni di legge. Questo è l'elemento che sta, diciamo, che si sta discutendo. È un fatto positivo, perché sapete, appunto, il 40% di persone detenute in Italia che non sono state ancora state condannate, probabilmente, se verrà approvato questo disegno di legge e se lo spirito di questa legge verrà fatta propria dalla magistratura giudicante e anche dai pubblici ministeri, perché anche loro non dovranno chiedere l'arresto quando non ricorrono queste esigenze, e se dovessero chiederlo devono preparare non chiederlo così seccamente all'interno della requisitoria, come se si trattasse con poche righe, ma dovranno portare delle motivazioni, delle prove concrete e scritte, comprovate da altre autorità, che quella persona, se lasciata fuori dal carcere, commetterà nuovamente dei reati. Quindi è una cosa abbastanza vincolante, dovrebbe essere, noi diciamo sempre dovrebbe, perché in Italia, sapete, contano sulle questioni della giustizia, sapete quanto conta di più il battage dei media. I media parlano in maniera spropositata dei fatti di cronaca. Avete visto l'ultimo episodio di questa madre, non si sa se viene accusata di aver ucciso il bambino, lei dice di no, insomma, e ne danno senza avere nessun elemento in mano, la gente si schiera, ci stanno quelli colpevolisti, innocentisti, veramente da imbecilli, perché se non hai non sei un inquirente che c'ha tutte le prove, gli interrogatori eccetera, così semplicemente da un articolo di giornale si crea schieramenti stupidi su una cosa che invece va riscontrata con attenzione nella realtà. E va bene, quindi questo è un problema molto grave. Passiamo direttamente all'altra vicenda, ed è una cosa che riguarda anche questa la cosiddetta giustizia italiana. Dunque, un avvocato molto bravo, insomma, no? che conosciamo da tempo e che si occupa di queste cose, ha scritto questo articolo sul problema della tortura, partendo da un fatto molto molto interessante. Sentite la storia. Allora, la Procura di Roma, no? Che è quella che sovrintende la libertà di tutti noi, sono convinti nella Procura di Roma che gli episodi di tortura siano tali soltanto quando riguardano fatti che accadono o sono accaduti al di fuori dei nostri confini. E quindi l'avvocato Romeo, che è l'estensore di questa lettera, dice: si sa, noi italiani siamo brava gente. Capita così, continua Romeo, che la Procura Capitolina abbia chiesto il rinvio a giudizio del cittadino uruguaiano Nestor Troccoli, una di quelle carogne spaventose, ma non è solo lui, che è stato accusato di aver commesso negli anni 70 diversi omicidi di militanti di organizzazioni di opposizione politica. Sapete, negli anni 70 in Uruguay c'era la guerriglia, i Tupamaros, no? Molti che hanno qualche annetto abbiamo solidarizzato con quella lotta, perché è una lotta giusta, sacrosanta, è una lotta volta a cacciar via la dittatura militare, a imporre una società molto democratica, più democratica di quella sulla quale i militari avevano fatto i loro colpi, insomma. Quindi era una lotta interessante, e questa banda di criminali che avevano il potere avevano sguinzagliato torturatori in giro per arrestare gente comunque senza prove eccetera, per sottoporli a torture, a sevizie e quindi stroncare l'opposizione, cosa che hanno fatto. Questo Nestor Troccoli è uno di questi, e aveva dato una mano anche alla giunta argentina, che in quegli stessi anni stava facendo una dittatura ferocissima, quella dei desaparecidos, no? Quella di Videla eccetera, quindi era proprio un torturatore di professione, un professionista della tortura. Bene, la Procura di Roma l'ha inquisito, e quindi perché la tortura in Uruguay e in Argentina è un reato. In Italia no, in Italia non è successo che per reati simili, analoghi, forse non con tantissimi morti come c'è a Troccoli, ma un certo personaggio che si chiama Ciocia, detto anche il professor De Tormentis, si erano dilettati anche loro negli anni 70 o primi 80 in episodi di tortura gravissimi. Non abbiamo avuto gli stessi morti dell'Argentina e dell'Uruguay, però insomma le torture sono state allo stesso livello, feroci, tante, molti contro le donne, molto, ovviamente quando la tortura viene praticata in genere da questi non so come definirle, persone, nemmeno persone, da questi esseri vergognosi, hanno nel loro bagaglio di sottocultura infame, hanno anche questo maschilismo un po' no? Fuori delle regole, per cui si accaniscono quando hanno di fronte una persona, una donna, ecco, nei confronti della quale esercitano le peggiori violenze. Il problema, quello che nota appunto l'avvocato Romeo, è che dice: è strano che la Procura di Roma, così attenta, ha messo sotto inchiesta questo Nestor Troccoli, che stava a godersi il sole in Italia per le torture fatte negli anni 70 e sia in Uruguay che in Argentina, e quindi probabilmente lo mette sotto processo. In Italia le persone che hanno fatto le stesse cose, una portanza più grave o meno grave, comunque hanno fatto torture ritenute tali ormai dagli organismi internazionali ed anche da alcuni tribunali italiani, cioè le torture degli anni 70 e 80 fatti all'opposizione, a quei governi in Italia, ai movimenti, alle formazioni armate, ai movimenti di lotta, non vengono considerate reato. Perché? Perché in Italia non c'è il reato di tortura, quindi non si può accusare di tortura quando non c'è il reato di tortura. E allora l'avvocato Romeo porta ad esempio il caso di Enrico Triaca. Enrico Triaca era un militante delle Brigate Rosse, arrestato e ovviamente sottoposto a una delle più feroci torture, perlomeno qui nel periodo attuale, il waterboarding, il tentativo di soffocamento con acqua e sale perché crea il panico, una grossa devastazione interna, e quindi induce a parlare. Lo volevano far parlare, quindi l'ha preso in mano non tanto la polizia ufficiale, perché poi avrebbe potuto avere delle ripercussioni, ma questa squadra così segreta, e chiamavano i Cinque dell'Ave Maria, di questo signor Ciocia, che appunto si faceva chiamare dottor De Tormentis, con questa, sì, così, no? Piace molto a questi bastardi di avere così, e i suoi uomini si chiamavano i Cinque dell'Ave Maria. Formalmente non erano appartenenti alla polizia, formalmente, quando torturavano, però probabilmente lo erano, ma si cambiavano di abito per non essere in qualche modo diciamo poi individuati, chiaramente. La Corte d'Appello di Perugia, questo Enrico Triaca, come sapete, appunto fu sottoposto al waterboarding, torturato eccetera, e lui dopo, quando fu lasciato da questi personaggi, fece la denuncia davanti al magistrato di essere stato sottoposto a tortura. Il magistrato, sempre in quel che allora apparteneva, anche se non praticava la stessa tortura, la copriva, come l'hanno coperta i politici di tutte le aree politiche, qui sia bene dirlo, tutti i partiti politici esistenti negli anni 70 e 80 in questo paese, perché allora è avvenuto, non perché... hanno coperto la tortura, così più o meno tutta la magistratura, tutta la stampa, eccetera. Accusato di essere sottoposto a tortura. Il magistrato non solo ha detto non luogo a procedere, ma l'ha inquisito per calunnia nei confronti delle forze dell'ordine. E lui ha avuto la pena, è stato condannato per calunnia. Poi, passata l'emergenza, la situazione, 30 anni dopo, appunto, proprio pochi, lo scorso anno, nel 2013, ha fatto ricorso alla Corte d'Appello di Perugia, che ha verificato che invece la tortura c'era stata, e quindi la sua accusa di essere stato torturato non era calunnia, ma era riscontro dei fatti reali, e gli ha cancellato quella condanna, che tra l'altro aveva scontato, e finisce lì la storia, insomma. E poi avrebbe dovuto la stessa Corte procedere contro i torturatori individuati, perché sono stati individuati, perché qualcuno ha parlato in punto di morte, qui qualche torturatore si fa prendere dai problemi, capito, di coscienza, pensa che forse in paradiso non ce lo vorranno più e quindi si confessa, è venuto fuori, ormai si sa chi è stato, nome, cognome, indirizzo, tutto quanto. certo sono un po' vecchietti, però insomma comunque una condanna non gli farebbe male, se non altro per dimostrare che questo paese insomma nella anche formalmente, quando non c'è una grossa emergenza come non c'è adesso, è contro la tortura. In realtà non ha potuto procedere invece la Corte d'Appello, perché in Italia non esiste il reato di tortura, quindi in base a quale a che cosa viene imputato questi cinque dell'Ave Maria? Di maltrattamenti? Ma certo, ma maltrattamenti sono, essendo passati 30 anni, sono sicuramente diventati non più perseguibili, sono i reati non gravi, hanno un periodo molto breve, no? Per essere cancellati. Se ci fosse il reato di tortura, con i suoi tempi invece di prescrizione molto più lunghi, simili a quello dell'omicidio, ovviamente potevano essere ancora inquisiti e condannati e processati, perlomeno per avere, no, invece no. E non si possono processare le persone individuate ormai da analisi, inchieste, anche testimonianze degli stessi che si sono autoconfessati al pubblico. Qualcuno è andato davanti ai giornali e ha detto: vabbè, sì, sto in punto di morte, ormai tra poco morirò, voglio pulirmi la coscienza e dico: sì, è vero, io ho partecipato alle torture, le abbiamo fatte, c'era quello, quell'altro, abbiamo fatto delle cose indegne, bla bla bla, si sono puliti la coscienza. Ma de che? Nessuno può imputarli. Perché il reato di tortura non c'è, quindi qualche giudice potrebbe appunto imputare i maltrattamenti, ma il reato sarebbe ultra prescritto, figuratevi, e quindi non possono, è impotente. Perché in Italia non c'è ancora il reato di tortura? Ora è chiaro che nessuno crede, che se è una persona sensata, che mettendo come norma giuridica il reato di tortura staremo tranquilli perché la tortura non verrà mai più applicata. Ma de che? È chiaro che nei periodi in cui si innalza la lotta di classe, il conflitto, la situazione diventa meno controllabile come attualmente, per esempio la situazione è molto più tumultuosa, è ovvio che lo Stato, i poteri forti rimettono la tortura, che ci sia o non ci sia il reato di tortura nel codice penale. È ovvio che è così, quindi nessuno pensa che una legge ci può garantire da non subire più maltrattamenti o torture. Però il fatto è soltanto per capire quanto sono imbecilli questi che poi che siedono al Parlamento, che hanno il terrore di contrapporsi loro stessi, che pure sono appunto parlamentari, no? Di contrapporsi alle forze dell'ordine, perché le forze dell'ordine non vogliono assolutamente che si metta questo articolo, perché poi andrebbe contro di loro, perché sono loro che materialmente praticano la tortura, anche se quando la praticano è su indicazioni degli alti papaveri, però loro la praticano e quindi verrebbero inquisiti e condannati e processati e forse anche condannati per tortura. E poi appunto il reato di tortura non avrebbe una prescrizione così corta come il maltrattamento e gli altri reati. Questo è un po' il senso del discorso. Ma la cosa ancora più che fa ridere, fa piangere, non so come vi viene a voi, è che poi gli stessi giornali che hanno coperto torture in Italia, cioè tutte le porcherie fatte in Italia fino alla Diaz, sapete, le vere e proprie torture, tutto il mondo sa che in Italia nel 2001, dopo le giornate di Genova, sono state praticate torture, sevizie, maltrattamenti, cose ferocissime, ma nessuno è stato condannato. Gli stessi giornalisti, giornaliste, uomini della stampa, donne della stampa, politici e politiche, eccetera, si scandalizzano perché in America, e a tutti i difetti di questo mondo, però perlomeno lì è uscita fuori una 6.000 pagine in cui la commissione d'inchiesta del Senato ha individuato le torture fatte a Guantanamo dagli agenti della CIA nei confronti delle persone arrestate inquisite per terrorismo. Ora potete dire quello che volete, sono tutti anti-americani, tutti i documenti della sinistra sono critici verso l'America, che figurate, è chiaro che va a criticare, eccetera, ma non sarebbe il caso di criticare un po' più forte quello che succede in questo paese, visto che le schifezze qui sono molto più gravi e molto più feroci e molto più completamente coperte e diciamo quasi quasi gradito.